attenzione, Emanuele, cambio. Emanuele, cambio. Sento Emanuele, cambio. Attenzione, Emanuele. Attenzione, Emanuele, cambio. Uno, due, prova, Emanuele, cambio. Sposta appena appena. Emanuele, cambio. Uno, due, se prova. Uno, due, se prova, Emanuele, cambio. Strano. Sì, sì. Aspetta, ti vedo, incontro una cosa. Sì, esatto. Mi senti tu? Adesso ti ho sentito io. Ma io sto con l'altra antenna. Ti devo sentire con l'altra. Sposta appena appena l'altra. Sposta. Sai che è spostata? Anch'io, quando stavo nel piano di sopra, secondo me metro nessuno mi sente, ma hai capito? È una frequenza strana. Ma sono dentro casa, c'ho l'antenna esterna. Esatto. Siete solo nell'altro e basta. Cerca di spostarla. Sposta appena appena, piano piano. Dai, come ti faccio qui il coso lungo? Prova, uno, due, prova, prova Emanuele, cambio. E io su fuori, prova il fuori, no. Magari, capito? Sì. Lì sono i punti, c'hanno. Io ho il ponte Rosello, capito? Hai copiato il messaggio di domanda vocale? Io domani mattina ti chiamo domani mattina, capito? Marino. Giulio. Mario. Ma già se tu si è. Sta provando un termino Emanuele per casa, capito? Ah no, non lo sento io. C'è un antennino su casa che gli ha fatto bacchiglio, ma mi ha detto adesso lo sposta. Questa è già una frequenza strana, proprio. Di girarsi appena appena, piano piano, fino a quando non mi sente. No, io non lo sento a Emanuele. Non lo sento per niente. E adesso che già mi chiama lui adesso, va? Bravo, bravo, dai. Buonanotte. E adesso mi appena mi chiama, dico una mezz'oretta che mi appoggio, perché sono stanco molto. A due venire dalla una e mezza oggi. Dai tre mangiamo fuori a casa. Oh, yeah. Ciao giù. Ci siamo più tardi, dai. Ok, ciao Mari, ciao. Marino, sì. Marino. Attenzione Emanuele, cambio. Attenzione Emanuele. Basso, come mai è basso? Strano. È strano. Aspetta un attimo solo. Sembra un po' strano, basso. Ma vedi così, basso. Mari. Ehi, Emanuele. Ehi, ho detto sei basso di segnale quasi non ne hai. Per quello che ti ho detto, come mai? Cazzo, di aerogreno non arrivi in oggi. A me va un pochettino strano, segnale basso. Boh, un po' strano, eh. Allora, il Santiago è 1, la radio è 3. E 3, cazzo, ma arrivi sempre nuovi. A me va un pochettino strano che sia basso. Aspettami, commento gli occhiali, aspetta un attimino. Mi stiamo facendo spaventare. No, è così, Mari, è così, fidati di me, mi arrivavi 9. E cazzo, già lui non ti ascolto con l'antennino dentro. Perché cazzo, sento gli altri, non sento a te. A me non mi senti basso, boh, forse la non sento. Ti sto dicendo, la radio è 2, il segnale è 2, 1 e mezzo è 2, e se la radio è 3, non è quella radio come c'è, cazzo, è di 9 l'altro giorno. Non ho giocato nulla, se non che non sia qualcosa in antenna, va, boh, non ho giocato nulla, strano. Ti sto dicendo veramente, Marino, non è che lo so con i segni, ma cosa, cazzo, il segnale è 1, 2, il segnale. Non so cosa dirti, eh. Aspetta, ma t'accorto, non so. Ma c'era a minimo sì. È normale, come c'è non sempre, scusa. No, c'è qualcosa, Mari. La radio è 3, fidati che c'è qualcosa. Perché mi arrivavi 9, non uscivi così. Non lo so, devo controllare fuori all'esterno dopo, no? Adesso sta iniziando a piovere. Fendevano che buro. Comunque così, Mari, guarda quell'antennale che no, guarda il cavo, il PL, che cosa, dalla radio. Perché tu mi arrivavi 9? Cazzo, arrivavi bene, ma cazzo sei 1 di segnale. Non lo so, dopo controllo da sotto se è staccato qualcosa, non lo so. Vabbè, dai, sentiamo dopo, dai. Cazzo, col preampi mi arrivi a 6 e mezzo 7, col preampi di antenna, figurati. Beh, stiamo parlando di cosa? Di PMR adesso, Sto parlando di PMR, col preampi di antenna mi arrivi 7. Senza preamplificatore mi arrivi a 1. Mi va un po' da strano. Devo trovare l'antenna fresh, esci da che devo chiacchiare il cavo là sotto, vedo se si vede qualcosa, aspetta un attimo. Adesso sei 8, cos'è Ducato? Luda di Ducato, Luda. Vedi? Avanti sei 8. Caso, ma per l'animale baloguro sì, o Mari? No, hai giocato nulla. Ma non è che il PL che ti sta che non ti sta facendo contatto bene. Ah, ma sei tu. Allora io il PL da parecchio neanche lo tocco. C'ho solo il microfono in mano e basta, Aspetta che accendo l'altra radio se mi senti. Se ti ascolto in antenna, in antennino. Prova. Parla. No, parla tu. No, niente, non ti sento. In antennino non ti sento, Mari. Comunque guarda bene che sicuramente c'è qualcosa nel cavo. Sicuro, sicuro. Perché adesso sei 7 e 8. Ehi, Mari. Tony. Perché il PMR? E ti sento sì. E già arrivi. Andiamo, vanno a far fuori adesso. Va bene, va bene. Segnale basso però già arrivi. Basso radio? No, vedi è forte. Vabbè, segnale basso. Aspetta, ma... trovi di sento, aspetta, mando un messaggio. C'ho la batteria scarica qua, Manuè. Ah? Ho la batteria scarica. Entra sul 23. Vai sul 23, dai. Eia. Buonasera. E cos'è? Prometici. Ma tu attacco questo sono la mia Marcone, quello che mi ha dato Battisio. Poi se sta andando bene, però è un Santa Marino. Ho provato la E un Santa Marino. Non sto facendo bene come usciva prima Marino. Perché sono andato in una antenna, soltanto basso. Cazzo, comunque stai uscendo, già stai uscendo bene qua, ma noi siamo vicini per cui il controllo magari bisogna andare più lontano, capito? Però già sta uscendo bene. E quanto è lunga? Piccolina, Giamari, piccolina, però non la faccio il cavetto da fare, la facciamo. Ehi, va bene, la facciamo. Domani mattina me la porti e incominciamo. Già scendo giù tutto, vai. Non so se c'è ancora il coso del piello, piello per salvare. Beh, femmina, non ce l'hai un piello femmina? Se lo vuoi guardare la giardina, non lo so, Giamari. Vediamo un po' se ne ho qualcuno io. Aspetta che guardo, vediamo un po' se ne ho qualcuno io, dai. Ma non la facciamo. Ma dove? Non ne ho. Bisogna buscare un PL femmina, capito? Ce l'avevo. Se non c'era qualcuno in magazzino, non lo so. Guarda, in gabbino, se c'è. Perché mi sembra che era sì, no, non so, adesso guardo. Guarda, casomai guardiamo anche il magazzino, qua non ne ho, qua non ce n'è nemmeno uno, si chiede per guardare il magazzino per un po'. Può darsi che in magazzino ci sia qualcuno, lo so. Però poi tu guarderai in cabina, io guardo il magazzino domani mattina. Sì, perché lui si è preparato con lo vigilo e si fa. Eia, eia. Allora, cosa vuoi tu? Dimmi tutto, canta. Aspetta. Già sono dormito, vai. Tu sveglio, sì. Ehi, canta, bobo. Andiamo bene, andiamo. Capito, ma dov'è? E uno che abita qua vicino, Non lo sento io. Non lo senti? No. È strano, Ma con l'antennino sì. Sì, aspetta, lo sento l'altro. Perché con l'antennino non lo sento nemmeno io. Ci ho messo quella esterna. Ciao Mario. Ehi. Mi ascolti adesso? Cazzo. Non lo credo. Adesso è quella fu, quella grande. E chi c'è qua? Ti sento. Ah, c'è l'altra lì, qua avanti. Dormito sì. Ma avanti non rispondi. Sì. Vabbè, mentre ha chiuso là. Ma è vanno in base. Però ti sento strano, Non è, se sei con la serra non ti sento bene. Come non mi senti bene? Aspetta, forse c'è il volume basso. Prova. Se c'è il volume basso... Ciao Mario, come fa a non sentirmi? Adesso va bene. Adesso sono con quella esterna. Adesso va bene. Avanti, tu dormito, sì. Si avvede. Ciao Natali, ben sentito, Vedi, se l'abbiamo mentre si deve, già esci. Ce l'ho io la X50. E come fa? Ma dove ce l'hai adesso? No, che cazzo, quella deve uscire fuori dai palazzi. Ti fa da cosa, ti fa lì? Ti fa da ombra, Nathalie, è proprio in mezzo ai palazzi, quella deve uscire almeno fuori, qualcosa fuori dal tetto. E comunque ti ascolto bene, dai, ti ascolto bene, 69, 95. Sì, se eri stato con la X50 mi avresti arrivato fondo scala, non più forte, no, fondo scala. Tanto con questa qua no, TVI non ne fai, con un PMR TVI non ne fai, Sì, pensiamo sempre in Ugo, se non c'è mai nessuno. E dipende qua, se di mattina no, ma la sera penso che ci siamo sempre la sera. No, Gio Mari. Ciao Mari. Bah, pari due. Comunque ci siamo sempre, Natali. Vedi un po', Natali, se mi ascolti con questa. Natali, ascolti, Natali. Ehi, Natali. Via, un attimo. Pronti? Mi ascolti, Natali? O devo alzare ancora? Andare allora. Gio Maria, ci sì. Gio Maria! Attento, figaro. Laburotto. Oi, cra. Con chi stai parlando? Natalino, cioè. Vabbè, Natali. Certo che sì, che ti sento. Non te l'ho detto, cazzo, buh. Cerca di fare qualcosa per quell'antenna. Se si deve piazzare bene, si piazza bene. Ma dove ce l'hai? La finestra. L'ho già detto, Manuè. Ha detto che non riceve nulla. Non riceve nulla, lui lo sa meglio di me. Non è la prima volta che piazza le antenne, Natalino, no? Quelle antenne devono avere spazio, devono irradiare. Se tu la chiudi, non fasi nulla. Io l'ho messa nella finestra e non sentivo niente. Ho messo l'antennino piccolino, quello che ho dato a Natalino. Sento a Tonino, lo sento a tutti, Manuè. Deve essere in alto quell'antenna, deve stare sul tetto, oppure fuori ad un'altezza che irradi, così non andava. Gliel'ho detto anche io, perché li fa da ombra, è proprio in mezzo ai palazzi, è per quello che... Anzi, è già tanto che sta arrivando qua, qua mi arriva bene lo stesso, 9.5, la radio 5 mi arriva bene, però gli altri non lo so se lo sentono. Qua a volte arriva, a volte non arriva. Quando arriva arriva bene, però bisogna piazzare la vecchia antenna. Se no è un casino. Vai Natali, va. Natali, non vedi più. Caput. Cla, tutto a posto. Io, tutto a posto. Tutto ok. Mi stavo facendo l'altro microfono per il Barrett. l'MB più 5. Infatti poco fa lo stavo provando, ma gli ho buttato i guffi, si intende una battigioro, all'altra non si intende più. Avevamo giù comprare un po' giù i guffi, anche chi si mi ha rompito le balle. Sì, a me già mi ascolti, sì. Santiago 9, sei tu. Andave. Mi sentivo anche poco fa con Gio Maria, col portatile. Col portatile? No, perché? Ti sentivo basso, cosa stavi provando poco fa? L'altro antennino che, siccome me l'ha data, te l'avevo detto se ne avevi una, e questa me l'ha data Bacchisi autocostruita, però come ricezione è una canonata o class, solo che non va, a volte la cosa non lo sento a Natalino, e però a Tonino lo sento, vabbè che ce l'ho davanti. A Gio Maria lo sento anche in villaggio a due bassi, non so se sento a te. Non so, io già ti sento, basso ma già ti sento. Con quell'antennino? Sì, non con l'antennino, ti sentivo poco fa parlare con Gio Maria. Aspetta che accenda a vedere. Prova a vedere. Ciao. Ehi, ya. Ehi, va bene, ti sento. Ma come non sento Natalino? Io ti sento, basso ma ti sento, segnale non ne hai ma già ti sento. Tu mi senti a me? E allora hai visto, già funziona anche in lontananza, però non capisco perché non senti a Natalino. Natalino non può planeare niente. Cosa vuoi dire? Io non lo so, bisogna metterla bene quell'antenna, sennò da lì non esce bene lui. Attacca l'altro, voglio vedere la differenza. Eccomi qua, com'è adesso? Sì, un abisso c'è, da segnale 0 a segnale 9. Andare dai. Andare. Sì, via, allora, tocca fare domani mattina, i cinesi compriamo un paio di guffi. Perché queste sono rotte. Ma fanculo questo. E vabbè, ce l'ho un sacco di anni. Io me le ho comprate, quelle wireless o claro. Cazzo, ma lo sa come si sentono? Le ho prese da internet, ce le ho già un anno. Cazzo, mi collega anche alla televisione, mi guardo i film, senza filo, belle. Ho capito, ma devi mettere l'unità, già lo so, ce l'ho avuto anche io. No, io col filo lungo ce l'avevo, faceva tutta la stanza, figurati, gli avevo cambiato il filo, gli avevo messo il filo un bel lungo, per non stare a tirare, per fare le prove con le radio, da una scrivania all'altra, capito? E invece, o se è attaccato qualche filo all'interno, sorpresa, ce li ho buttate nella mondezza, se abbia il culo, domani vale me le compro. Sicuramente. Ma a Tonino l'hai sentito con quell'antenna là? No, non ne ho fatto prove. Non ne ho fatto perché non c'aveva cavo, non lo so. Io non ci sono andato. E lì bisogna ci organizziamo, perché in questi giorni sono un po' incasinato. Ho ripreso lavoro e quindi sono un po' incasinato, capite? Allora, l'ha fatto la prova con me l'altra volta, gli ho detto attacca un attimo sia uno che l'altro. Con quell'antennino là arriva a 9. Con quella che gli ho dato io, quella che sembra una Grand Prix, 9,5, 9,10. Ma voi siete vicino, vabbè, ci hai notato la differenza, la noterò anche io in lontananza. Se è così ci vuole poco, si stacca il PL dal barilotto e si collega a quella, capito? E quell'altra la usa in macchina, nello stesso palo dove c'è quella base magnetica, si toglie il piantone sopra della base e si innesta quella lì. Sì, ma lui perché? Allora, lui l'ha messa in un bastone di scoppa. La messa e in pratica però è più bassa, è bassa, non è alta come antenna, ma infatti una volta che io riscontro anche così che c'è differenza da una e l'altra, poi più la sollevi e più guadagna, quindi si toglie quella là dalla base magnetica e nello stesso palo senza aggiungere altri pali si piazza quella, capito? Infatti deve fare così, comunque la differenza già c'è. Beh, sicuramente c'è, perché una è per macchina, l'altra è per casa, quindi la differenza c'è. Però la voglio vedere io in lontananza, perché voi siete talmente vicini che può anche ingannarti il segnale, capito? Sì, quello sì, deve provare in lontananza, quello sì. comunque già va bene, dai, è da piazzare come si deve, deve prendere un tubo o una staffa che si attacca al tubo dell'antenna. Sì, vabbè, quello non feci lì, non c'è problema. Ascolta, attaccato ce l'hai il baracchino, vai al 23 che ti faccio sentire il microfono che ho fatto per il 950, se va bene così lo lascio stare e c'ho due microfoni, dai. Così non stacco il 60, perché ogni volta devo staccare MC60 dal 430 e attaccarlo lì. Vai sul 23, dimmi se va bene. È già acceso, va. Ehi Natali, che segna modulazione? E la già in danzura, Natali. Ehi, ti sto chiamando, mi senti? Natali, non sta uscendo. Adesso sì, adesso no. E chi è? Ma perché riproviamo, Manuel? È acceso, Cla. Ora. Ehi, ottimo. Cosa? Io, beh, intanto anch'io. Adesso metto un po' a posto qua. E poi c'è la biglia in gomma di Bossa Ma. Sono qua Natali, comunque noi ci siamo sempre qua, io quando accendo le radio accendo anche questo, quindi se chiami io già ti sento, non c'è nessun problema. Però ti ripeto, quell'antenna va messa in una maniera meglio di come l'hai messa Natali, perché deve irradiare, lo sai come sono quelle antenne. E vabbè, però tu immaginati che a Tonino momentaneamente ho rubato quella della macchina, eh? L'ho messa su un paletto con una piattaforma a base magnetica, e arriva Santiago 7 qua, quindi, però è fuori in alto, capito, con un palo di, boh, sarà 3 metri, capito, ma tu non ce l'hai più quella che abbiamo usato a scarapicchiare l'antenna, quella bibanda, non ce l'hai più, non ne hai antenne da macchina, non ho capito, cosa hai detto? Una bufera c'è putta, aspetta un attimo che si arruva con, sì. Hola. Natali. Manuel. Ehi, Giomari. Ehi, vai, sergente, scusa se non ho risposto prima, ma sergente. Ehi, tranquillo, Giomari. Natali, sì. Oh, sono qua, eh. Oh, qua. Oh. Sono gabardelli su internet, lo sai quanto costano hanno i buchi in vendita? Il triplex. Dove la canto buoni? 50 euro. Te la diamo. Nuovi mai usati, va scritto. Quanto? 150. Se ce lo siamo fatti. E guarda, e adesso io per il lavoro che ho fatto, me ne serve uno anche a me. Non so se comprarlo o non comprarlo. Capito? Ma costano una vacca di denaro, ma fuori di gara, che sono proprio bazzi. Te l'ho detto che costa un capitale, io ne avevo preso uno 78 euro, uno della Kenwood, 78 euro, ma ti parlo anni fa, mi. Un bel su, cazzo 150, un pezzo di due spinotti. Un commutatore elettronico praticamente, nel senso che tu attacchi l'antenna, attacchi i cavi e fa lui, commuta automaticamente. Capito, non è altro, è una grandissima gaggada che però serve per chi ha i B-banda, tutti i radioamatori hanno quello lì, a meno che la radio non abbia duplexer incorporato come quella che ho io, capito? Io ho i basi che ho, c'ha un attacco U e un attacco V, capito? E l'attacchi così. Però i duplexer ci vogliono, per le radio HF, cioè VHF e UHF ci vuole il duplex per far funzionare un'antenna B-banda, altrimenti devi mettere due antenne con due cavi di discesa. E adesso appena riesco se ne metto un'altra di antenna, o se no mi piglio questo duplex qui che l'ho visto a 50, quello che ti avevo mandato a te, 50 euro spedito. E noi adesso vediamo se mi serve, che sto facendo dei lavori, molto probabilmente sposto un'antenna e ne piatto un'altra B-banda, capito? Quella che ho in campagna, me la metto a Sassari, e la nuova, perché monto la 7000, diciamo, che è più grande della 510, monto quella lì e l'altra la Raimo, la 510, mi serve un duplexer, quindi adesso vediamo, se faccio quel lavoro ne ordiniamo due. Fammi sapere e prendo quello là, 50 euro spedito, quello a due, non mi interessa quello per gli HF. No, fottedine, a due, a me mi serve a due, V e U, capito? Per usare la 7000 con il bibanda base, con l'820H, e la 510 con l'altro base, capito? Col 780. Via. Sì, perché con questa antennina sì, ricevi quelli in vicinanza e buh. Aspetta un secondo. Cos'è, Cla? Aspetta un secondo, arrivo. Ehi, sono qua, Manuel, dai, che è arrivata mia figlia. Ehi, atto... Cla. Vabbè, quindi col microfono, vabbè, a posto, quella prova l'abbiamo fatta, qua è tutto, vabbè, regolare, quindi non c'è problema. No, va benissimo. Vai benissimo con quella modulazione. Vabbè, meno male, cazzo, no, ogni volta devo staccare un microfono, o da qua, o dal 430 al 440, attaccarlo lì, dai. Almeno c'è il microfono suo e sono sicuro che va bene. Cosa gli hai messo, l'MB+5? Via, l'MB+5 attacco a 8. Cazzo, una gannonata. Sembra l'MC60 dalla modulazione, perché assomiglia all'MC60. Sì, mi sono ascoltato, c'è una mezza timbrica, c'è i medio bassi, gli acuti, va bene, regolato bene, vabbè, è settato bene quella radio, eh. Essendo digitale poi, Manuel, cioè, una volta che tu fai il settaggio è quello, capito, la programmazione al computer, eccetera, quindi quella lì va bene. Sì, va benissimo. Poi non ti tiri niente, né se tu fondi né nulla, è proprio, senti proprio la modulazione tua e basta. Benissimo, sono contento, almeno. Ho trovato un compromesso con Massimiliano, non lo stavo usando, e quindi me l'ha dato a me. C'aveva già l'attacco a 8 perché era per il keyboard, capito? Però c'era un problemino, che usciva ma non usciva di modulazione. Allora per non toccare il microfono, perché quello è stato fatto per il K, quindi alimentato 8 voci senza batteria, e così funziona anche il 950, prende l'alimentazione, dà l'alimentazione al microfono 8 voci. Quindi ho invertito praticamente il filo all'interno, invertito, un ponte ho fatto da un polo all'altro, e si sente bene la modulazione. Pensavo che fischiasse, invece non fischia. Ho soldato un pezzettino di cravettino, mi sembra dal verde al nero, dal verde al nero. Esce benissimo, non si vede nulla, è all'interno. Sì, esce bene, ok, esce bene. La radio è bella pulita, non ve ne esce né nulla. Va bene la modulazione. Almeno non tocco il microfono, capito? Perché non si sa mai che mi serva per il K, c'è la connessione anche Kenwood, capito? Poi nel caso quello non lo uso più con quella con 950, tolgo il coperchio di nuovo, disaldo il ponte che ho fatto. Cos'è ti stavo dicendo? Che adesso l'MB+4, l'MB+5 è cassa di ricurina da rete, l'ho vista a 40 euro pure. Sì, ma ti ripeto, sono microfoni che qualità-prezzo fanno il suo lavoro, Manuel, capito? Vedi, ti togli dai pasticci, perché altrimenti io cosa dovevo fare? Dovevo comprare un altro MC60 e mi costava un patrimonio, perché un MC60 usato lo trovi sempre 70, 80, 90 euro. E invece quello lì, con un prezzo equo, funziona bene la radio, tutto lì. Sono saliti molto i microfoni, sono saliti tanto, il prezzo dei microfoni è salito tanto, soprattutto quelli Kenwood, Yaesu, Icom, costano una barca di soldi. Anche non lo so, ce ne ho avuti, ne ho avuto due di MC60 quando ero su. Vabbè che io non li ho pagati così, però tramite amici miei radioamatori me l'hanno fatto pagare a basso prezzo. E io ne ho 4 MC60 e quando li ho venduti sempre a metà prezzo, però ti ripeto, quando l'ho comprato io nuovo quando io li ho comprati nuovi, perché li ho comprati tutti nuovi, erano dai 120 ai 130, dipende. Adesso un 60 costa 160 euro, l'SM20 della Icon costa 180 euro, io l'avevo pagato 130. Capito? Stanno diventando molto cari e quindi bisogna che ci arrangiamo con i microfoni che passa al convento. Sì, adesso costa la massa, non ne vale più la pena spendere tanti soldi. Non ne vale più la pena, Ocla, casanaggi peso abbastanza, io di nama a testa, in antenne, in radio, che da voi bagosa, ui. No, ma infatti, ci arrangiamo così con quello che passa al convento, basta, io microfoni ne ho tanti, professionali e non, però questi MB più 5 ti dico che fanno il suo lavoro, fanno il suo lavoro. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo, Manuè, ok, io mi faccio due chiacchiere con mia figlia, che è da stamattina che non la vedo, vedo se ci sono novità lavorative. Ci aggiorniamo dopo, sono sia sul 23, sul 10 e qua, ok? Io ho acceso solo il PML, dai, no, l'altro l'ho spento. Tanto, pentindilo guarderemo, cosa l'ula che fa attrice. C'ho solo questo qua acceso, dai, in caso ci sentiamo più tardi. K ci conferma, dopo. Ia, ciao qua. Ciao Manu. Guarda a vedere adesso. Adesso sei bello pulito, limpio e chiaro. E poi ti ha messo con dovuto buoni in piedi, anche se no un cavolo mi ascolti bene. 105 di stazionario. Dopo. E tanto già ce l'ho io l'antennino. Se mi sono che mi avevo fatto arrivare. E poi combattere. La pelle mia, dai, stacco troppo, tutta la montagna che c'ho, Ma spostato ti sì? No, non mi sono spostato, sono sempre qua. Sì, perché ti ho ricevuto tutta scarica. Tu sai, no, di noi, che ti lasciai, che è da catacammare un muro. Scappano in terra, no. Va bene, dai, una fine di quel ricci deve girare tutto. Ok, signor Bacchi. Thank you. Marino, sì sì. Marino. Marino. Marino. Marino, sì sì. Tony, si dà di sì. Tonino. Chi è? Chi è? Sì, ciao Marco, mi sembrava Tonino perché anche lui c'ha questa sirena quando vuole entrare. Andare, no, già ti ascolto Marco. Ciao Marco, ciao ciao, ci sentiamo. Ciao Noele. Mari, Marino. Ehi, ti sento di lusso. Quale stai usando adesso l'antenna? Adesso sto usando quella sul tetto, però non mi senti con quella lì, con quella piccolina. Vabbè, l'importante è che riceve, dai. Riceve quella piccolina? Ah, sta a voglia. Ah, ma lo devi provare con qualche portatile, dai. Ma dovrebbe trasmettere, guarda, perché lui sta subito. Stava. Io, quello che mi ha fatto lui è così, e io che sono stata sul paletto e uscivo. Mi sentivano tutti, mi sentivano, figurati. No, io adesso l'ho messa fuori, appoggiata al poggiolo. Comunque come ricezione va bene, mi interessava solo la ricezione mio Marino, non in trasmissione. Sì, allora già va bene, là, va benissimo. Ma se non sbaglio tu fuori sul poggiolo, sopra dove c'hai, nella parete dove c'hai i lavoggibili, è alluminio se non sbaglio, o ferro. Mettila più in alto, se ce la fai. Prova a mettere, dovete subito tra autofolanti e la piazza lì più in alto, là, leggermente più in alto, sopra la finestra diciamo, là, sempre nella parte del giardino. No, già va bene così, Mari, mi interessa solo la ricezione, mi interessava, per avere il doppio ascolto, capito? E ok, la meglio così, là, l'hai ringraziato al boss Bacchisi, sì? Non l'ho sentito. Sì, in caso sì, grazie, per l'antenna. E cosa fai? Usato dai, no? Quel cavetto. Quel cavetto domani lo facciamo con Gio Maria, ne facciamo un'altra con quella. Capito? Ne prepariamo una come ce l'ha lui e vediamo uno o l'altro. Sì, ok, ma sai quanto ne fa Bacchisi? Oh, yeah. Vabbè, ma lui si diverte in campagna, si diverte, hai capito? E passa il tempo, e passa. A me quelle che mi ha fatto questa lì sono tutte bene, sono tutte ok, mi stanno chiamando al cellulare, chiudo, ci vediamo dopo, là. Ciao. Ciao Mari, ciao. Tonino, ci sei? Tonino? Tonino, ci sei?